l'altro giorno ha aperto l'undicesima struttura tra studentati di lusso, alberghi camuffati da studentati, ostelli per turisti. Dal 2017 ad oggi, nello stesso periodo, non è stato aperto niente di pubblico. 11-0. Con le strutture che anche in linea col progetto del PNRR, insomma, la stanza, il media di una stanza di 14 metri deve rendere almeno 1000 euro. Alcune di queste strutture poi sono alberghi camuffati, quindi si presentano come studentati, ma in realtà vai su Booking e prenoti. Purtroppo abbiamo un limite, cioè un brutto primato. Siamo la città capitale del modello student hotel, ovvero dico che devo fare lo studentato per la fascia ambiente di studenti internazionali, in realtà anche questo aumenta l'offerta ricettiva alberghiera. Poi in questa città, se questo era il piano 1, poi ci aggiungo che siamo dopo Venezia, siamo quelli con più affitti brevi, e soprattutto il rapporto alle case disponibili. Quindi a Firenze ormai è impossibile trovare casa a prezzi sostenibili, sia per gli studenti che per i lavoratori, per chiunque, ma anche il prezzo delle case è esploso, perché ormai non ti trovi più a avere a che fare con un'altra persona, con famiglia, con amici che vuole comprare casa. Ti confronti con qualcuno che sta comprando mezza città per creare quartieri VIP per turisti. Insomma, noi siamo nella tempesta imperfetta. Infatti una domanda ti volevo fare: questi studentati di lusso hanno dei prezzi che poi condizionano anche gli altri affitti in città? È chiaro, perché il meccanismo è la bolla immobiliare, ma questo vale sia per gli studenti che per le residenze. Se prima uno affittava una stanza in casa a 300, 350 euro, 400 euro, ora il confronto è che a 50 mesi c'è chi l'affitta a 1000, 1200, 1300. È il meccanismo, e noi siamo in un circuito in cui qualcuno pensa che i prezzi possono salire all'infinito, per poi arrivare al momento in cui ormai tanta gente, insomma, chi vince un corso pubblico a Firenze, dopo 2 o 3 mesi, se non ha la casa e non vive qua, chiede trasferimento. Uguale sta funzionando per molti ragazzi e ragazze che fanno l'università di Firenze. Cioè, qui siamo all'interno di un circo barnum ingestibile. Come si sta muovendo il comune, come si stanno muovendo le istituzioni di fronte a questo problema? Perché è un problema che viviamo anche in altre città, quindi come dire, spesso si richiama il governo, però insomma l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale, se fosse convinta, ha molti strumenti per bloccare, rallentare e cambiare il segno. Lo dico per esempio, ma è improprio l'esempio, ma da un'idea. Dopo Gran Montanà, Firenze, sono partiti i controlli, siamo già a 2 locali notturni chiusi. Se si fanno i controlli, le norme che esistono sono già abbastanza adeguate. Poi invece, parlando del tema generale, noi veniamo da 4 anni di Renzi, 10 in Ardella. Nardella, il suo primo intervento da sindaco eletto, e sarò il più grande agente immobiliare, girerò il mondo, perché dobbiamo innescare la più grossa operazione immobiliare. Cosa ha consistito? Chiamare tutti i fondi di investimento a dire: perché non vieni a comprarti qua? Noi ti diamo garanzie che spendi poco e non facciamo controlli e che non perdi tempo, perché come al solito. E quindi voglio dire, noi ci troviamo in un decennio in cui è stato concesso di tutto di più, e questa è la parte 1. La parte 2 è quella invece, come si può dire, del fatto che ci sono molte operazioni di mezzo, e questa giunta non sta mettendo nessun freno, non riapre nessuna discussione, mentre sugli affitti brevi noi siamo stati quelli che abbiamo lanciato la campagna sulle K-Box, la giunta ha fatto un buon regolamento, la legge regionale dà spazi, però come al solito non si fanno controlli, e le norme senza controlli non cambiano niente. Per la prima volta c'è l'opinione pubblica completamente schierata, destra, sinistra, ricchi, non ricchi, giovani, vecchi, su 2 gambe. La prima gamba, cara a Firenze, che è un po' cara a New York, o Miami, cara a Amsterdam, cioè tutti si rendono conto che la situazione è insostenibile. E la seconda aspetto, che salda molto l'opinione pubblica, è il non ti riconosco, cioè noi ci troviamo con un senso di spaesamento, non riconosciamo più la nostra città.